Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Nel primo giorno d'estate i mercati si trovano a fare i conti con i crolli delle borse europee registrati ieri in seguito alle parole del numero uno della Federal Reserve, la banca centrale americana, Ben Bernanke, che ha detto che ci sarà una riduzione degli stimoli monetari da parte appunto della banca centrale statunitense stessa in tempi anche abbastanza brevi, forse già entro la fine dell'anno. L'immissione di liquidità nel mercato da parte di diverse banche centrali, l'ha fatto con un'iniziativa straordinaria ad inizio aprile anche la Banca Centrale del Giappone, ha fatto il buono e il cattivo tempo negli ultimi mesi, ma con le prime voci di un possibile allentamento di queste politiche arriva puntuale il ritorno della volatilità, ma anche delle preoccupazioni tra gli investitori più grandi ma anche tra i più piccoli. Salva Danaio oggi dedica una puntata ai risparmiatori che si chiedono quali siano le mosse più giuste per mettere al sicuro il proprio denaro, il proprio risparmio, perché il timore che torna è se si preannuncia o meno una nuova estate movimentata come quella che abbiamo già vissuto un paio di anni fa. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, i vostri interventi in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666. Quali dubbi avete per i vostri investimenti in questo momento e come state gestendo questo momento di nuovo molto delicato per i mercati finanziari internazionali? Ne discuteremo con Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca SGR, benvenuto. Buongiorno. E benvenuto anche a Giancarlo Magri, promotore finanziario di UbiBanca, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Allora, prima di tutto questo, per la verità oggi siamo totalmente allineati con il tema di Salva Danaio, anche con la consueta pillolina iniziale sull'andamento delle borse. Ieri cali fortissimi, oggi tentativo di recupero da parte delle borse europee, un recupero che comunque non riesce a colmare tutto quello che si è perso ieri, siamo anzi molto distanti. Per Parigi, che ieri è stata la piazza nera d'Europa, la maglia nera d'Europa, oggi c'è un rialzo dello 0,95%, per Francoforte più 0,47%, per Londra più 1,31%, Madrid stamattina non riusciva a rimbalzare, adesso segna più 0,3%, più 0,4%, per Milano rialzo di mezzo punto percentuale, fino a poco fa il rimbalzo di Milano era un po' più consistente, adesso è poco più di mezzo punto. Bene la Popolare dell'Emilia Romagna che guadagna il 4,82%, Telecom più 3,84%, Exor quindi Galassia Fiat che stamattina ha aperto male, adesso in rialzo del 2,43%, Prismian più 1,91%, continua a correre Mediaset più 1,88%, chi invece stamattina non va molto bene è Mediobanca. Piazzetta Cuccia segna meno 4 punti percentuali, i vertici stanno presentando il piano industriale per il gruppo per il periodo 2014-2016, svalutazioni stimate da ascrivere a bilancio per circa 400 milioni di euro. Mediobanca mette in vendita il 3% di Generali, portando la sua partecipazione dal 13% al 10%. Tante notizie che stamattina sono state fornite al mercato e che evidentemente non sono state particolarmente apprezzate, perché appunto, come vi dicevo, il titolo perde il 4%, un punto di ribasso lo segnano anche Finmeccanica, A2A e TOTS, lo spread fra BTP e Bund stamattina aveva aperto a 293 punti base per poi scendere vicino ai 280. Per la borsa è tutto, ma è tutto solamente per quello che riguarda le notizie di questa giornata. Parleremo anche di borsa questa mattina, di mercati finanziari e soprattutto quali sono le ricette che adesso dovremmo seguire per tentare di mettere al sicuro i nostri risparmi. Timori, entusiasmo, poi di nuovo dubbi e timori, rialzi in borsa, corse e poi di nuovo crolli e volatilità. Sono stati mesi particolari quelli di quest'anno per i mercati finanziari, che ci portano, nel primo giorno d'estate, a riflettere sugli scivoloni delle borse europee registrati ieri, in seguito alle parole del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, sulla prossima riduzione di stimoli monetari da parte della Banca Centrale Statunitense. È stata proprio la politica monetaria delle banche centrali a fare il buono e il cattivo tempo in questa prima parte del 2013. Non solo quella degli Stati Uniti. Anche la BCE e soprattutto il Giappone, con l'ormai famosa Abenomics del primo ministro Shinzo Abe, hanno avuto un ruolo di primo piano. L'immissione di liquidità nel mercato ha sostenuto sia il mercato azionario che quello obbligazionario. ma con le prime voci di un possibile allentamento di queste politiche, arriva puntuale il ritorno della volatilità e delle preoccupazioni. E i risparmiatori non possono che chiedersi quali siano le mosse più giuste per mettere al sicuro il proprio denaro. Solo i più ricchi si avventurano in un momento come questo in investimenti realmente rischiosi. Lo conferma anche una recente indagine del Financial Times. Per tutti gli altri, il consiglio sempre valido è quello di mantenere una buona diversificazione. Molti analisti sembrano d'accordo nel guardare con particolare attenzione al mercato obbligazionario, consigliando di preferirlo rispetto alle azioni. Le obbligazioni societarie, in particolare, potrebbero essere un po' più stabili rispetto ai titoli di Stato, che però non sono certo da dimenticare, alla luce dei buoni rendimenti che in alcuni casi riescono a garantire, ad esempio quando si tratta di paesi emergenti. Un posticino andrebbe riservato sempre anche alle commodity, l'oro in prima fila, per quanto in questo momento stia iniziando a rallentare dopo anni di corsa. La prudenza, in ogni caso, sembra essere un imperativo, alla luce di una fase che si presenta come una correzione di rotta rispetto ai molti sprint registrati nel corso degli ultimi trimestri. 800 24 0024, il numero verde per i vostri interventi in diretta. In alternativa potete scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook al profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Terminato gli indirizzi, mi manca di dare solamente quelli dei nostri ospiti. Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca SGR. In queste ultime ore ho letto sui giornali molti commentatori, molti colleghi, anche i giornalisti, hanno utilizzato questo paragone forse un po' anche di cattivo gusto, sostenendo che effettivamente il mercato fosse stato drogato fino a questo momento dalla grande liquidità fornita dalle banche centrali, e l'altro ieri, il presidente della Federal Reserve ha detto: questa droga cominceremo pian piano a farla mancare a tutti i tossicodipendenti in circolazione, e quindi su questa indicazione appunto il mercato ieri è stato molto penalizzato. Era in realtà una notizia che prima o poi doveva arrivare, non è stata una notizia per la verità, solamente un annuncio di intenzione, eppure ieri mercati molto negativi. Che ne pensa di quello che è successo nelle ultime ore? Ma certo, il dato di fatto è che i veri attori sui mercati finanziari sono le banche centrali. Questo lo è da quando è iniziata la crisi e lo è stato ancora di più quando la crisi naturalmente si è accentuata. I tre attori principali sono la Banca Centrale Americana, che ha avviato una politica molto aggressiva per prima, e quindi è chiaro che c'è da aspettarsi che per prima, se i risultati sono positivi, come si sta vedendo sulla crescita del prodotto interno lordo, sia la prima a dover frenare questi acquisti. La seconda è la Banca Centrale del Giappone. Tra l'altro, solo per interromperlo un attimo, per spiegarlo ai nostri ascoltatori, oltre ad aver ridotto enormemente i tassi di interesse, la Banca Centrale Americana sta comprando i titoli di Stato appunto che il Tesoro americano emette, 85 miliardi al mese, e quindi questa è nella sostanza questo quantitative easing di cui si parla. Quantitativi molto importanti, no? Si è accodata anche la Banca Centrale del Giappone, l'unica che non si è accodata ma ha fatto dichiarazioni molto importanti anche per i mercati, la Banca Centrale Europea. È chiaro quindi che gli acquisti fatti dalla Federal Reserve siano stati importanti e abbiano avuto effetti non solo sul mercato domestico ma anche fuori dal mercato domestico. Questo è l'elemento molto importante, perché chiaramente con il crollo che c'è stato ai rendimenti, molti investitori sono usciti dagli Stati Uniti per andare a ricercare rendimenti interessanti fuori dagli Stati Uniti e in tante aree geografiche, fra cui anche molti paesi emergenti coinvolti. Quindi più che un crollo, quello di ieri da parte delle borse non è stato un inizio di ritorno verso la normalità. Si esce da un mercato molto liquido e si va verso altri. Assolutamente. Chiaro, è chiaro che è un ritorno alla normalità, naturalmente che avrà molta volatilità, anche perché vedremo quali saranno le prossime dichiarazioni. Vivremo purtroppo nei prossimi trimestri molto ancora schiavi di queste dichiarazioni, di questi interventi, che sono chiaramente guidate da quello che è l'economia reale e il suo andamento. Quindi se negli Stati Uniti si conferma un recupero della crescita economica, e chiaramente la Federal Reserve continuerà in questo rientro, no, di questa politica politica straordinaria. Se invece ci saranno situazioni in cui la disoccupazione torna a salire, l'economia quindi non cresce più ai ritmi obiettivo che ha la banca centrale, potrebbe esserci un'ulteriore inversione. Certo. Quindi bisogna essere aperti a questo tipo di volatilità guidato dalle banche centrali. Che quindi oggi... ecco, qualche indicazione su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi, molto chiara c'è la data. Attenzione agli annunci, alle dichiarazioni dei vertici delle banche centrali, e su queste dichiarazioni i mercati si muoveranno di conseguenza. Giancarlo Magri, lei con i suoi clienti parla di quello che fa Ben Bernanke, di quello che fa Mario Draghi a Francoforte, di quello che fa il governatore della Banca Centrale del Giappone, oppure parlate di qualcosa di più concreto? Non che questo non sia concreto, però sicuramente magari un po' lontano rispetto a quelle che sono le esigenze di risparmio delle famiglie italiane. Beh, il nostro ruolo è anche quello di cercare di far comprendere agli investitori cosa sta succedendo, quindi qualcosa bisogna spiegare e bisogna comunque trasmettere quello che sta succedendo sui mercati finanziari. Poi fondamentale, secondo me, il nostro ruolo è anche quello di, lo dico sempre, monitorare il rischio, far capire al cliente, l'investitore, che rischio sta portando a casa, cosa sta facendo, e da lì costruire il portafoglio. Poi non riusciamo a inseguire le dinamiche dei mercati, perché se dovessimo comprare, vendere, entrare, uscire, il rischio è quello di fare sempre danni maggiori. Cioè, fondamentale costruire un portafoglio adeguato. Dopo l'importante è creare quel feeling con l'investitore e creare quel clima di fiducia. Comunque, ecco, insomma, il vostro impegno è anche quello di far comprendere le dinamiche internazionali e magari portarle in una dimensione più domestica. C'è un suo collega, probabilmente, almeno dal tono della mail che ci manda, che ci scrive: Massimo, ma è mai possibile che un investitore, prima di operare, non abbia chiaro il piano d'azione da adottare per ogni scenario che si dovesse presentare? L'investimento va pianificato prima, le strategie di uscita devono essere chiare e precise, soprattutto vanno eseguite anche se comportano perdite. La gestione del rischio, a mio parere, non si fa solo con la diversificazione, ma anche con un'attenta gestione delle proprie posizioni. Vedo che scuote la testa Simone Binismaghi. Ma sì, questa mi sembra un po' un approccio, voglio dire, un po' aggressivo. Voglio dire, in realtà bisogna costruire portafogli che riescano a superare le volatilità che possono arrivare sui mercati. Questo direi che è la formulazione più coerente. Qual è il profilo di rischio del cliente e quindi qual è il portafoglio da suggerire diversificato, ma che permetta di sostenere certe volatilità, perché se appena arriva un po' di volatilità si prende il cliente, lo si fa uscire, come diceva il collega, si rischia di fargli un cattivo servizio. Certo, non farlo uscire, ma magari dargli un'indicazione su quello che potrebbe accadere. D'altronde forse voi un'idea, Giancarlo Magri, un po' più chiara rispetto ad un risparmiatore piccolo ce l'avete, e comunque questa indicazione magari è interessante. Costruirgli delle diverse ipotesi di quello che potrebbe succedere ad un risparmiatore, è possibile farlo? Sì, cioè, il mio ruolo è anche quello di fare delle ipotesi su quello che potrebbe succedere, fare delle ipotesi che comunque non possono essere corrette nel futuro. Cioè, quindi è mettere di fronte il cliente su quali rischi può avere il suo portafoglio in caso di diverse dinamiche. Quindi se c'ho l'aumento dei tassi di interesse sull'area americana, questi probabilmente si trasmettono anche sull'area europea, in termini magari non immediato, ma nell'arco di 6 mesi, un anno. Con i subprime questa è una lezione che abbiamo appreso con grande chiarezza, insomma, che una crisi molto forte da tutt'altra parte del pianeta la possiamo rimbalza riportare. Noi, esatto. Sì. Allora, no, tra l'altro invece i vostri gestori, Simone Binismaghi, come si stanno muovendo con lo spread a questi livelli in questo periodo, visto che di pane e spread ormai viviamo da 2 anni a questa parte? Questo concetto che 2 anni fa non sapevamo neanche dove abitasse, a che cosa si riferisse, invece adesso è nelle abitudini di tutti, prenderlo seriamente a riferimento. Volevo aggiungere una considerazione sul punto precedente. Quello che è molto importante è far capire al cliente che i mercati non possono soltanto salire. È chiaro che ci sono delle correzioni. Quanto si può sopportare di una correzione? Quindi, no? Qual è la perdita massima che un cliente accetta, no, di sopportare? Quindi questi sono gli elementi importanti. Lo spread oscilla fra 300 e 250, direi oramai siamo intorno, no? In questo range da diverso tempo, quindi chiaramente siamo nella parte alta, quindi è sicuramente una parte interessante per fare degli investimenti. Allora adesso forse ancora non è il caso di fermarsi, abbiamo ancora un minutino di tempo prima di andare in pausa. Il tema è anche capire, con questa volatilità con la quale dovremo prendere confidenza ancora per qualche tempo, investire su quali asset, quindi come pesare azioni, obbligazioni, valute, materie prime, perché anche questo è un tema molto interessante di investimento. Magri, che cosa sta succedendo, suggerendo di fare adesso ai suoi clienti, tenendo sempre naturalmente, come dire, a riferimento il fatto che ognuno ha la sua esigenza, la sua attitudine al risparmio, la sua propensione al rischio, allora, anzi, propensione al risparmio e magari... Diciamo che la rotta va tracciata in base al profilo di rischio. Poi in questo momento, specialmente gli investitori italiani, gli imprenditori, eccetera, vivono un momento di tensione e di paura economica, quindi la propensione al rischio sta calando, nel senso, se l'imprenditore ha un'azienda che prima gli permetteva di accantonare risparmi di certe dimensioni all'anno, oggi questi risparmi non li ha più e anche il capitale che ha investito lo vuol mettere più tranquillo, vuol rischiare meno possibile anche sul proprio capitale. Quindi in questa fase stiamo vivendo anche una riduzione della propensione al rischio dei nostri investitori. Come si trasferisce questa esigenza in abitudini concrete? Cioè l'imprenditore che vuole stare al sicuro, quindi come investe? Il portafoglio va ribilanciato, come diceva prima il collega, riprofilando in base alla percezione e sostenibilità della massima perdita che può avere il portafoglio. Cioè, quindi va ridotto il rischio sia in componente, può essere azionario, nella parte anche obbligazionaria dove c'è un rischio, proprio perché l'investitore medio italiano oggi ha meno propensione a portarsi dei rischi, perché già nell'attività ordinaria sta rischiando parecchio. Senta Magri, poi andiamo in pausa, però un'ultima domanda gliela voglio fare. Lo stock di ricchezza italiano è molto alto, ma la propensione a risparmio da parte delle famiglie si sta un pochino riducendo da qualche anno a questa parte, e le famiglie italiane hanno intaccato anche un po' dello stock personale, appunto, di ricchezza, e così anche tra i suoi clienti? Non solo le famiglie, ma anche gli imprenditori che nell'ultima fase hanno utilizzato i propri risparmi e immessi nell'attività aziendale per mantenere e dare una continuità. Quindi in questo momento stiamo assistendo in Italia a una riduzione del flusso di risparmio. Mi auguro che questa cosa abbia un'inversione di tendenza, anche perché il risparmio è quello che comunque ci ha permesso di crescere, di stare in piedi come Italia. E sicuramente anche di proteggere il paese dagli effetti della crisi, che avrebbe potuto essere più importante, vero Binismaghi? Assolutamente, questo è molto importante, ma per ricreare ricchezza bisogna tornare a crescere, e se non facciamo delle politiche a favore della crescita, purtroppo non avremo una crescita della ricchezza. Questo è l'elemento essenziale. Eccoci ritrovati in diretta. Questa mattina, alla luce dei nuovi movimenti piuttosto vistosi vissuti dai mercati finanziari internazionali nelle ultime giornate, siamo ritornati appunto a parlare di questo argomento, soprattutto in un'ottica di risparmio, come proteggere al meglio il proprio risparmio alla luce di questi movimenti, anche se per la verità dovremmo proteggere il nostro risparmio sempre, anche se i mercati fossero assolutamente statici, però chiaramente in quella condizione sarebbero già al sicuro per proprio conto. 800240024, i nostri ospiti di questa mattina, quello era il numero verde naturalmente per le vostre telefonate. Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca SGR, un promotore finanziario di UbiBanca, Giancarlo Magri con noi appunto per rispondere ai vostri quesiti. Rossano ci scrive su un tema che per la verità sta a cuore a molti ascoltatori e a molti risparmiatori, il tema della cedola, praticamente questa distribuzione periodica che molti prodotti di investimento appunto garantiscono, e che per la verità è stato sicuramente la modalità di investimento più ricercata da parte di famiglie e imprenditori nell'ultimo anno, forse negli ultimi due anni. Rossano ci scrive: in funzione di una riduzione della volatilità emozionale, forse si fa riferimento al suo portafoglio, e di un aiuto al reddito reale, cosa ne pensano i vostri esperti dei fondi a distribuzione mensile, che tra l'altro sono un po' fiore all'occhiello anche di casa Arca? Simone Binismaghi. Sì, bisogna guardare attentamente però come viene distribuita la cedola, che prodotto ha e che caratteristiche, ma sicuramente i prodotti, come dicevamo, che distribuiscono una cedola, se non proprio mensile, forse con una periodicità leggermente diversa, hanno come loro caratteristica anche una riduzione del rischio nel corso della vita di questi prodotti, quindi vanno molto bene per affrontare l'emotività dei clienti, che spesso li porta a fare degli errori, ovvero il caso di un cliente che ha comprato un BTP e che è sotto di 3 punti, cosa fare, cosa sì, non fare. Un ascoltatore che c'ha... Il fondo permette di fare degli arbitraggi, e quindi di fare gli arbitraggi perché quando si muovono i tassi anche e gli spread si possono fare degli arbitraggi, possiamo andare a migliorare le cedole dei fondi che quindi sono nati con una cedola, e poi nel corso della vita, quando ci sono movimenti, si possono fare degli arbitraggi e migliorare notevolmente la cedola del fondo, e quindi a favore del cliente, cosa che invece il cliente che ha comprato un titolo con quella cedola, quando è sotto il suo prezzo di acquisto, non si muove più e rimane con quella quella cedola senza cogliere le opportunità. Ecco perché bisogna stare molto attenti ad avere anche consulenti che assistano il cliente nella scelta dei prodotti per prendere gestori qualificati e professionali, perché questo è un po' l'obiettivo. Bisogna stare attenti che il cliente o chi lo assiste non si metta a fare il gestore anche lui, e allora inizia a essere molta emotività che generalmente porta a non risultati favorevoli sul proprio portafoglio. Poi sentiremo anche cosa ne pensa Giancarlo Magri di questo. Volevo però rimanere per un attimo sul comparto cedole. Quali sono in questo momento gli ambiti che ne garantiscono di particolarmente interessanti e remunerative, Binismaghi? Esiste una fotografia che si può scattare in riferimento a questo? Non c'è una fotografia particolare. È chiaro che le cedole sono diverse a seconda di quello che è il portafoglio sottostante, che presenta delle rischiosità diverse. Ma quello che è interessante è avere dei portafogli diversificati. La diversificazione è l'elemento trainante che permette di attraversare i mercati finanziari in questo particolare contesto, e quindi generalmente la diversificazione è un esercizio alquanto complesso, e maggiormente diversificato il portafoglio, più difficile è anche per il singolo risparmiatore andare a costruire con una giusta logica la diversificazione. Giancarlo Magri, anche lei suggerisce prodotti che riconoscano delle cedole interessanti, magari periodiche, appunto, al punto da poter rappresentare magari la tredicesima, la quattordicesima del nucleo familiare in questione? Beh, una parte su queste, ma anche direttamente acquistando titoli di Stato. Cioè, nel mio portafoglio i titoli di Stato rappresentano comunque una buona fetta, e questi già loro distribuiscono dalle cedole. Italiani? Sì. Com'è andata negli ultimi due anni con titoli di Stato italiani che hanno avuto degli scossoni non indifferenti, ai quali sicuramente il risparmiatore italiano non era abituato? Beh, io mi ricordo una trasmissione il giorno dopo del Fate Presto, dove il titolo del Sole 24 Ore, sì, quando lo spread era veramente a 7,75, 8% il decennale. Sì, era... sì, eravamo arrivati a 5,70 come sì, differenziale, come... sì. In quel momento i miei clienti hanno tenuto le posizioni, anzi abbiamo anche allungato le scadenze, le duration, eccetera, quindi l'anno scorso si sono portate a casa dei rendimenti che non vedranno più nei prossimi, secondo me, nei prossimi 10 anni. Chi aveva pelo sullo stomaco in quel periodo sicuramente ha fatto dei buoni affari, però bisogna essere investitori professionali ed essere appunto seguiti in maniera... Sì. Poi non il 100%, comunque in un singolo titolo con scadenze differenziate, eccetera, spiegando quali erano i rischi. Poi uno che prende un titolo a 10 anni e è contento di portarsi a casa un rendimento per i prossimi 10 anni del 6%, può sopportare anche oscillazioni di prezzo dal 5-10%. Come probabilmente ha fatto Ernesto dalla provincia di Mantova, che è il primo ascoltatore che mettiamo in linea oggi all'800 24 00 24. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Grazie di avermi chiamato. Grazie. Io ho investito i miei denari in BTP. Ho cominciato dal 2015, aspetti, con scadenza 2015 al 2039, diversi BTP con piccoli importi, ho dei buoni rendimenti, ho fatto delle obbligazioni bancarie da reddito fisso a reddito variabile. E adesso che lo spread è aumentato qualcosina, mi piacerebbe ancora buttare qualcosina dentro, qualche 5.000 euro. Cosa mi consiglia? E il mio portafoglio è un portafoglio buono o è meglio che cambi qualcosa? Allora Ernesto, intanto bisognerebbe farle un'analisi un po' più approfondita, cercare di capire un po' se questo è l'unico, come si dice in gergo finanziario, asset che ha appunto investito, se ha anche delle azioni, se ha un patrimonio immobiliare, come è composto il suo nucleo familiare, che tipo di obiettivi ha. Quindi le domande da farle sarebbero molte, ma se dovessimo soffermarci, Simone Binismaghi, a fare così un commento solo sul tipo di approccio che ha al mercato obbligazionario questo nostro ascoltatore, la convince? Ma mi sembra che sia un ascoltatore, no, che è prudente, sicuramente, anche se qui ci sono dei titoli, no, lunghi come titoli BTP, perché fino al 2039 insomma c'è una certa volatilità. Se il cliente riesce a sopportare la volatilità, no, dei titoli di debito così lunghi, molto bene, la sua strategia va bene, se no deve essere più prudente, ovvero accorciarla. Forse questo, se è una persona anche di una certa età, come mi pare, quindi di per sentire, bilanciare un po' meglio, se ha ancora questa piccola risorsa magari puntare su titoli che hanno delle scadenze più brevi. Sì, questo è il suggerimento che potrei dare in questo momento. Giancarlo Magri, naturalmente l'immancabile obbligazione bancaria nel portafoglio dell'ascoltatore c'è. Chi non ce l'ha in questo periodo? Forse sarebbe il caso di fare un'analisi di questo tipo, ma è difficile, credo. Beh, bisogna capire anche che tipo di obbligazione bancaria, qual è l'emittente, se è subordinata, il tasso che ha in carico. Cioè, ripeto, per fare un'analisi del portafoglio, il consiglio è quello di rivolgersi al suo consulente, dove la conoscenza e la possibilità di dialogo permette di fare una radiografia completa. Certo, senta, ma ci sono molti risparmiatori che chiedono consigli sul conto di deposito, perché sicuramente rispetto ad un anno e mezzo fa adesso le remunerazioni stanno progressivamente scendendo e i tassi sono comunque interessanti, ma sono ancora, come dire, coprono l'inflazione, insomma, qual è anche la dinamica di questo prodotto in relazione alle esigenze delle persone? Allora, per me il conto di deposito può essere la cosa giusta sulla parte di liquidità che devo tenere a disposizione per le esigenze immediate. Poi chi ha fatto il conto di deposito un anno fa al 4% lordo, che poi diventava al 3,20 netto eccetera, e non ha comprato un titolo a 3, 4, 5 anni, probabilmente ha perso un'occasione. Cioè, quindi molte volte l'investimento a breve sul conto di liquidità non è che sia la cosa migliore. Lei dice ha perso l'occasione, ma magari è stato più tranquillo. Se andava bene per lui. Se andava bene per lui era contento, però probabilmente nei prossimi rinnovi il 3,20 non lo vedrà più, vedrà mano a mano i tassi andare a scemare. Certo. E quindi insomma anche lì il prodotto che può andar bene per chi davvero non vuole assumersi, Bini Smaghi, nessun tipo di rischio. Ma però, come dire, adesso è difficile ipotizzare che esista sul mercato un prodotto assolutamente free risk, privo di rischio. No, però credo che un punto interessante sia anche prestare attenzione ai prodotti che hanno il rischio controllato al loro interno, e questo è forse l'elemento più interessante che c'è oggi, insieme a quello che dicevamo prima sui fondi con le cedole, anche i fondi che hanno il controllo del rischio, quindi quando salgono i rischi sui mercati riducano notevolmente il rischio del portafoglio e quindi tutelano l'investitore. Quello che sentiamo spesso anche dalle email che lei ha letto, o anche i clienti cercano di essere protetti quando ci sono i rischi sui mercati. Qui ci sono oggi sul mercato dei prodotti che svolgono questa attività, tornando anche all'utilizzo di tante attività finanziarie in un unico portafoglio. Questi sono i prodotti che oggi si configurano come rispondere proprio alle esigenze dei clienti, e quindi credo che questo sia un altro suggerimento da dare, cercare di avere anche dei prodotti che al loro interno si muovano rapidamente quando c'è un incremento delle volatilità per ridurla, perché spesso quando arriva la percezione del cliente stiamo già arrivando forse con un certo ritardo e quindi è meglio avere queste soluzioni nel portafoglio che viene preso sottoscritto dal cliente. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Adesso sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi abbiamo Mirko da Milano, Alberto dalla provincia di Reggio Emilia, pronti ad intervenire. Poi Magri, c'è una riflessione per lei, perché ci sono alcuni ascoltatori che sono rimasti abbastanza colpiti dal fatto che lei abbia detto che ha anche consigliato ad alcuni dei suoi clienti titoli di Stato, perché non sembra vero che insomma un promotore finanziario che lavora per una banca evidentemente possa farlo. E invece, siccome oggi i promotori, che anzi non amano più essere definiti così ma amano di più essere definiti consulenti finanziari ad ampio spettro a 360 gradi, possono tranquillamente farlo, se naturalmente hanno a cuore anche le esigenze di prudenza della propria clientela. Eccoci ritrovati in diretta. Mettere al sicuro i propri risparmi, è molto difficile naturalmente dare delle indicazioni che possano valere per tutti, ma ci stiamo provando questa mattina, in realtà ascoltando anche le esigenze di ogni degli ascoltatori appunto che ci stanno chiamando, in modo tale appunto da poter dare anche magari da ogni singola esperienza così delle indicazioni di carattere più generale. Sentiamo un paio di ascoltatori. No, Mirko è caduto. Allora proviamo con Alberto dalla provincia di Reggio Emilia, perché ci aveva colpito, Alberto, appunto la sua riflessione. Buongiorno. Buongiorno, io ringrazio per lo spazio. Io sono un risparmiatore abbastanza confuso, nel senso che ho fatto un acquisto credendo di aver fatto una cosa tranquillissima un mese e mezzo fa, di un titolo di Stato italiano al 4%, scadenza 39, ed l'ho acquistato 93. Mi era sembrata una cosa buona, nel senso andavo a fare un rendimento attorno al 4,4, 4,5 nel giro di poche settimane, a fronte di meccanismi che non sempre i risparmiatori hanno consapevolezza, mi ritrovo ad aver perso già quasi 3 punti oggi. E quindi la mia tentazione immediata è quella di venderlo. Alberto, però per una persona che fa, adesso qui la provoco un po', poi naturalmente non è che la voglio offendere, un investimento di tipo trentennale è una persona che non deve stare a guardare in maniera ossessiva giorno per giorno il rendimento di quell'investimento. E invece lei sta lì e tutti i giorni controlla di aver fatto la cosa giusta. Perché ha questa, come dire, ossessione del controllo quotidiano? Non tanto il quotidiano, ma diciamo periodicamente, a fronte di meccanismi che tutt'oggi il risparmiatore medio, perché non posso dire di essere un risparmiatore piccolo né anche grosso, medio, non comprende completamente. Nel senso, il fatto di poter individuare nel giro di poche settimane, a fronte di meccanismi interni sull'Italia tranquillizzanti, a fronte di problemi politici che vengono bypassati, che non danno un reale problema al governo e tutto il resto, mi aspettavo un minimo di stabilità in più. E a questo punto rimango confuso, perché veramente i meccanismi che riguardano l'Italia non sono più in mano neanche alla BCE. No, Alberto, direi che con questa maggioranza di governo. No, Alberto, in Italia abbiamo altri problemi che probabilmente né con Shinzo Abe né con il governatore della Banca Centrale del Giappone hanno nulla a che fare. Lorenzo, Lorenzo, ho sbagliato. Simone Binismaghi, cosa ne pensa appunto di questa scelta di questo? Di questo ascoltatore. Comunque io sono convinta del fatto che chi investa su un prodotto che dura così tanto forse non dovrebbe avere effettivamente, come dire, l'ossessione di guardare giorno per giorno ai movimenti. Questo è chiaro, però è molto interessante, perché credo che siamo di fronte a una situazione di un investitore, un risparmiatore, che credo sia molto diffuso nel nostro paese. Soprattutto quello che ha detto lui: ho comprato un titolo, credevo di essere tranquillo, anche se, come lei ha detto, ha 30 anni di scadenza o poco meno. Quindi voglio dire, in realtà abbiamo comprato uno strumento estremamente volatile, quindi qui c'è già un primo problema: lo strumento che è stato comprato si riteneva non fosse volatile e poi invece lo è. La confusione aumenta perché dice: ma in Italia il governo sta andando bene, e guarda caso invece il titolo non sta andando bene, anche perché non dipende, quindi anche la lettura di quello che avviene sui mercati non è proprio una lettura corretta. Ecco perché io credo che i risparmiatori devono stare molto attento al fai da te, a queste logiche in cui si crede di saper leggere e poi invece si trova spiazzati. Bisogna fidarsi a operatori professionali, a consulenti, esatto. Utilizzare gli strumenti. Lo raccontavamo anche a microfoni spenti, che ci sono gestori super professionali, elite del mercato, che in realtà fanno degli errori clamorosi. Parlavamo appunto di una famosa casa blasonatissima, adesso non la citiamo, che in realtà ha fatto degli errori molto importanti, che solo nell'ultimo mese ha perso belle fette del proprio portafoglio, per cui neanche i super esperti. Va bene. Magri, vuole rispondere all'ascoltatore che prima dice: ma che promotore finanziario è quello che fa sottoscrivere ai suoi clienti dei titoli di Stato? Insomma, non l'hanno ancora licenziata da UBI? Allora, mi auguro che non mi licenzino. Parto dal presupposto che chi mi dà da mangiare sono i miei clienti, quindi devo fare l'interesse dei clienti. Facendo l'interesse del cliente, io ho visto che faccio questa professione da 12 anni, il mio portafoglio è sempre cresciuto, ho acquisito sempre maggior fiducia nei clienti, ho superato il periodo del 2008, ho iniziato nel 2001, quindi con le famose torri gemelle, eccetera. Ho sempre cresciuto il portafoglio. Quindi ha cominciato comprando sui minimi ieri, era nel 2001, tracollando tutto, le è andata bene. Cioè, no, io ho iniziato a marzo del 2001, quindi le torri le ho viste tutte, eccetera. Quindi ho vissuto quella fase, ho vissuto il 2008, che è stato un anno veramente impegnativo nella parte del emotiva. Mio lavoro. Emotiva, sì. Ecco, poi dopo l'importante secondo me è fare l'interesse al cliente. Facendo l'interesse al cliente il mio portafoglio cresce, la mia forza nei confronti della società mandante, eccetera, aumenta, e io alla fine posso dormire anche quindi, un po' più tranquillo. Insomma, l'obiettivo è quello. Adesso non è che lei dalla mattina alla sera, come dire, suggerisce ai suoi clienti di investire in titoli di Stato, ma se ce n'è qualcuno che glielo viene a chiedere, lei non può dire assolutamente cioè, no, lo aiuta quantomeno. Nell'ottica di diversificazione ci stanno anche i titoli di Stato, certo, in portafoglio. Quindi insomma non ci dobbiamo assolutamente scandalizzare di niente, Binismaghi. No, mi sembra che l'approccio è un atteggiamento di molto responsabile. Sia corretto e soprattutto l'attenzione al cliente. Questo è un elemento estremamente importante. Quando lo si ha nel proprio DNA, nella propria disciplina, al centro del tavolo c'è il cliente sempre e comunque, e quindi qualsiasi cosa che viene intrapresa deve essere intrapresa proprio a difesa degli interessi del cliente. Mi fa molto piacere che Magri lo abbia evidenziato, e questo fa onore, voglio dire, a quello che è il DNA di un mondo che ci vede, no, uniti, che sono il mondo delle banche popolari, che hanno sempre questa grande attenzione al cliente. Un'ultima considerazione, siamo in chiusura, ci mancano 40 secondi, però insomma una riflessione su quello che potrà accadere questa estate. Si può andare tutti quanti in vacanza perché potrà permettersela tranquilli, insomma le oscillazioni dei mercati saranno ancora molto vistose come quella che abbiamo visto ieri. Qual è il suo fiuto su questo, Binismaghi? È difficile chiaramente dare una lettura, però bisogna aspettarsi anche a volatilità quest'estate. Quindi che non si dica che non l'abbiamo detto, Magri. C'è sempre stata, ecco, e quindi non ci accompagnerà, ecco, sempre il nostro, è vero, lavoro. Non sarà che adesso, come dire, la monitoriamo un po' di più del passato, quindi forse ci ha responsabilizzato un po' tutti questa crisi? Sicuramente dal 2008 in avanti la consapevolezza è aumentata. Benissimo, e con questo chiudiamo. Simone Binismaghi, non sarò mica la prima ad averla chiamata Lorenzo, no, ecco, la prima nell'ultima probabilmente. Grazie per essere stati con noi, anche a Giancarlo Magri. Noi ritorniamo naturalmente lunedì. A tutti buon fine settimana.